我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有线调频98.6兆赫，欢迎收听。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点、22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场。请欣赏多尼采蒂的歌剧《玛利亚·斯图阿达》全剧录音。这部歌剧描述了16世纪英国王室中发生的尔虞我诈的争权夺势和复杂的政治阴谋。这一版录音由萨瑟兰、帕瓦罗蒂、图利热等演唱，伯宁吉指挥意大利波罗尼亚歌剧院合唱团乐团演出。 Yeah. adesso fa bella in queste mura e qual ti parve un angelo d'amor bella qual era che m'anima sempre troppo indegna di rio destino io te che disse parla ho sempre a bel sicuro affidarmi al tuo cor parla e giuro questa in mano questo voglio la scuola da peli mia di sua mano gli ebbi e pria del suo pianto lì pagnò città. Eccola al regio piede, io lo depongo, ella per me ti chiede d'un colloquio il favore. Ora cito con te, troppo fa te perderei, vieni. Lo chiede il barbaro. Amara, amara, il mio desiderio. Quale, quando? In questo giorno, al suo carcere di torno, per la caccia che si appresta. Thank you. Oh, Ci potrò finire Io ti guidai